Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi il programma è in diretta da Roma, ma poco conta, dagli studi di Radio 24 di Roma. E poi capiremo perché, anzi, diciamolo subito, oggi come ogni anno il Quirinale, il Presidente della Repubblica, ha premiato attraverso il premio Leonardo gli imprenditori italiani, giovani, meno giovani, ma anche stranieri che maggiormente si sono distinti nel nostro paese. E il premio Leonardo Internazionale è andato a un imprenditore cinese, lo abbiamo anche intervistato, che non solo ha investito 500 milioni di euro per comprare un'azienda italiana, ma ne sta investendo altri 160 di milioni di euro per, pensate un po', creare un centro di ricerche, il settore di cui si occupa sono macchinari per l'edilizia, un centro di ricerche in Italia, a Milano, in provincia di Milano, 160 milioni di euro, assumendo anche se non solo, ingegneri italiani. Perché? Perché gli ingegneri italiani sono bravi e non è vero che costino così di più rispetto a quelli cinesi. Ce l'ha raccontato lui stesso, ma è un modo come un altro per continuare sul nostro tema, ossia sfatare alcuni luoghi comuni, stereotipi sui cinesi, solo capaci di imitare, di copiare, di rubarci le quote di mercato. La Cina è un grandissimo mercato e lo è per molte imprese italiane, ma è anche un grandissimo investitore, sta comprando non solo il debito europeo, per fortuna, e che in questo modo riesce a tenere i tassi anche bassi in Europa, e dall'altro sta anche investendo quando trova buone opportunità. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, perché ascolteremo sia il Presidente della Repubblica Napolitano che la Presidente di Confindustria Marcegaglia, che poi i vari premiati. In apertura invece il rapporto del gruppo bancario Intesa San Paolo sui distretti industriali italiani, anche qui per non farci abbattere dal pessimismo. Certo che la Banca d'Italia qualche giorno fa si è uscita con una previsione non bella, un 2011 in cui cresceremo non oltre l'1%. Certo che la situazione politica e il dibattito è quantomeno deprimente, ma noi vogliamo continuare a raccontare anche le storie di chi ce la fa, di chi accetta la sfida, di chi migliora i conti, di chi va sui mercati, insomma di chi non si rassegna, mettiamola così. Dicevo, parleremo dei distretti industriali, perché nel frattempo, mentre la politica discute, per essere buoni, sono 18 i poli industriali dell'high tech, dell'alta tecnologia. In realtà dentro questa parola vanno i distretti della farmaceutica, del biomedicale, dell'information technology, dell'aeronautica, ma insomma 18 poli dell'high tech. Si dice sempre che l'Italia sa fare solo produrre la manifattura tradizionale, quindi made in Italy più classico, alimentare, abbigliamento, legno arredo e automazione. No, sa anche produrre tecnologia, e lo fa in 18 distretti appunto censiti da Intesa San Paolo. Poi parleremo degli Stati Uniti. Perché? Perché questa sera alle 3 ore italiana vi sarà l'atteso, come ogni anno, discorso del presidente americano, in questo caso Barack Obama, sullo Stato dell'Unione, discorso che da quello che si capisce sarà tutto incentrato sui temi economici. E ancora, da questo punto di vista, attenzione, perché l'altra notizia di oggi riguarda invece la borsa, o meglio il PIL britannico e poi la borsa. La Gran Bretagna ha avuto infatti un dato negativo nella crescita economica, a sorpresa, un meno 0,5%. Devo dire che la borsa di Londra non è tra le peggiori, anzi è invariata. Milano fa ben peggio, meno 0,83%, Parigi meno 0,20%, Francoforte invariata, Londra invariata, l'America meno 0,3%, euro a quota 1,3654. E adesso, a partire dai titoli, le notizie in breve, ferme restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. borsa, dicevamo, ST Microelectronics che oggi ha presentato a Parigi i dati, insomma meno 3,91%, è il titolo peggiore, Monte dei Paschi meno 3,5%, Azimut meno 3%, Banca Popolare di Milano meno 2,70%, Intesa San Paolo meno 2,5%, Unicredito meno 2,20% come il Banco Popolare, di Assorin meno 1,80%, Tods meno 1,70% come Mediobanca. Un punto e mezzo lo perde Mediolanum e UbiBanca meno 1,40%. Perde anche Finmeccanica l'1,33%. Bene invece tutti i titoli del gruppo Fiat: Fiat Industrial più 2,6, Fiat Auto più 1,90, Exor più 1,70. Come Fondiaria Sai, dopo l'intervento ieri di Lionel Ligresti, e ancora Bulgari più 1,5, Autogrill più 1%. Ancora i temi, dicevamo del petrolio stabile a $87 al barile. Per quello che riguarda invece l'oro, siamo distanti per fortuna dal record a $1,330 l'oncia sui mercati asiatici. E per restare in Asia, la banca centrale indiana ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, li ha portati al 6,5%. Perché? Perché anche l'India, non solo la Cina, teme che la crescita fortissima porti inflazione. L'inflazione infatti è stata rivista al rialzo in India al 7% contro una stima del 5,5%. Dall'Asia all'Europa, perché la Gran Bretagna, come dicevo, ha visto a sorpresa un PIL nell'ultimo trimestre del 2010 calare meno 0,5%. Il calo più forte da oltre un anno, e in questo modo l'economia britannica non crescerà più del 2,6% atteso, ma di un 1,7%. Migliore delle attese invece il deficit spagnolo, sempre molto alto anche nel 2010, al 5%, insomma c'era chi si attendeva un deficit già al 6%. Per cento in Spagna. Ancora per quello che riguarda invece le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, beh, lì le previsioni sono abbastanza buone, più 0,2% complessivamente la revisione a rialzo sulla stima di crescita per il 2011. Il PIL mondiale e dovrebbe crescere 4,5%, nell'area euro non si andrà oltre l'1,5%, bassino, ossia la metà. La crescita europea sarà la metà di quella americana, che dovrebbe essere quest'anno del 3%. Poche novità per l'Italia, ha confermato l'1% quest'anno, l'1,3% per il 2012, un po' più basso, ma poca cosa rispetto alla stima precedente che era l'1,4%. E poi sempre il Fondo Monetario che dice: il Fondo Europeo Salva Stati va aumentato quanto a disponibilità, servono ulteriori stress test per le banche, cioè test che vadano a vedere come le banche reagirebbero a situazioni pesanti, appunto, di stress nelle loro esposizioni. E poi serve risanare i conti con piani ambiziosi ma credibili. Nel frattempo il deficit americano, ossia nel 2011, sarà in media, o meglio, sarà doppio rispetto alla media europea, sarà il 10,7% il deficit americano, una soglia che in Europa sarebbe inaccettabile anche per i parametri di Maastricht. E anche il debito americano supererà il 110% del PIL nel 2016, un debito italiano, non americano. Allora, vedo già molti messaggi, però un po' di pazienza. Adesso arriviamo a tutti i temi che abbiamo annunciato, del Presidente della Repubblica abbiamo detto, oggi intervenuto al Quirinale, Napolitano ha detto che bisogna rafforzare la crescita economica, lo ascolteremo dopo, durante lo spazio dedicato ai premi Qualità Italia, ai premi Leonardo, e poi ha invitato ciascuno degli attori istituzionali, non solo, a fare più che mai oggi la sua parte. Positivo il commento di Marcegaglia sulle prospettive economiche del 2011, sarà un anno migliore rispetto al 2010. Devo dire che sulla situazione politica è intervenuto oggi anche in qualche modo il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, che a margine della presentazione dell'iniziativa del FAI, I luoghi del cuore, ha detto, insomma, se noi guardiamo soprattutto dall'estero il nostro paese, vediamo che è un paese distratto da tante cose che non gli fanno bene. Allora, due notizie rapidissime. La cedolare secca, una nuova imposta, darà un getto tra i 3 miliardi e mezzo e 4 miliardi e 2 nei primi 3 anni di introduzione. E praticamente una parte di questo getto viene stimata in base a un deciso recupero dell'evasione per gli affitti in nero. 600 milioni nel 2011, 1 miliardo nel 2012, 1 miliardo e mezzo nel 2013, lo stima una relazione tecnica della Ragioneria dello Stato. Mentre la Commissione Ambiente della Camera ha concluso oggi un'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare e ha scoperto che 3 anni di mercato in flessione hanno prodotto un dato definito allarmante, ossia uno stock di giacenze, cioè di alloggi invenduti, pari a 120.000 appartamenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il primo tema di questa puntata, i distretti industriali, potremmo intitolarlo Eppur si muove. Nonostante tutto, questo paese è il secondo paese che esporta, come dato sulle esportazioni a livello europeo, è riuscito ad agganciare un po' di ripresa grazie alle esportazioni, grazie al lavoro fatto anche dalle piccole imprese che si stanno ristrutturando, cercano di mettersi in rete, e grazie anche a una ricetta che è molto antica per noi. I distretti industriali li abbiamo inventati noi, vengono anche i giapponesi a studiarli, e cioè distretti in cui si realizza una filiera intera di un prodotto o di un settore, che si chiami la sedia, la piastrella, la cappa, la calzatura, la rubinetteria, poco importa, dove appunto si realizza tutta la filiera, per gemmazione si scambiano anche idee, nasce appunto il distretto. I distretti a questo punto non sono solo più manifatturieri, ma anche dell'high tech. Lo ha scoperto il rapporto pubblicato oggi da Intesa San Paolo. imprese che sono state esaminate, oltre 1 milione quelle con oltre 1 milione di fatturato, quindi non le piccolissime, suddivise in 101 distretti. Già il dato sul fatturato dei distretti è un dato buono, cioè dopo il crollo del 2009, meno 20%, quest'anno si è chiuso con un più 7%, cioè quest'anno, scusami, il 2010. Nel 2011 dovrebbe fare un più 3% come il 2012. Certo, di questi tassi ci vorranno 4-5 anni per recuperare la botta del 2009, ma ha recuperato moltissimo l'export, in particolare verso il Medio Oriente, India e Cina. Pensate che le esportazioni verso Pechino hanno fatto nei primi 9 mesi del 2010 da parte dei distretti un più 40%. Tutti i dati in questa scheda. La crisi lo ha reso evidente in modo brusco e spesso doloroso. Chi investe e innova supera anche le congiunture più difficili. Chi non lo fa è destinato presto o tardi a uscire di scena. Il principio del giocare in attacco e di non chiudersi in difesa vale per tutti, da chi produce alta tecnologia a chi opera in settori più tradizionali come l'abbigliamento o il legno arredo. Fortunatamente molti distretti lo hanno fatto e nel 2010 il fatturato complessivo dei distretti italiani è aumentato del 7%, recuperando una parte di quanto era stato perso nel biennio precedente, in particolare nel 2009, chiusosi con una flessione di quasi il 20%. Molto si deve al buon andamento dell'export, che si sta progressivamente spostando verso le aree emergenti, con le esportazioni verso la sola Cina salite di quasi il 40% nei primi 9 mesi del 2010. Nel quadro complessivo spiccano alcune aree di eccellenza che anche nel 2008 e nel 2009 hanno visto crescere il loro giro d'affari. Il rapporto Intesa San Paolo ne individua quattro in particolare: farmaceutica, biomedicale, information e communication technology e aeronautica. I distretti della farmaceutica sono quattro, distribuiti tra Milano, Roma, Toscana e area del Napoletano. In tutto occupano circa 70.000 addetti, che negli ultimi 10 anni hanno prodotto 1.100 brevetti e generato i 2/3 dell'export del settore. Il biomedicale si concentra a Mirandola, in provincia di Modena, dove oltre 200 piccole imprese operano al fianco di multinazionali e danno lavoro ad oltre 2.000 addetti. Sono 8 invece i poli dell'Information e Communication Technology. Il più importante è a Milano, dove lavorano 70.000 dei 200.000 addetti del settore e dove sono stati registrati 2.000 brevetti relativi a questo settore. Gli altri distretti ICT si trovano a Roma, Torino, Genova, Catania, Bologna e L'Aquila. Infine, i distretti aeronautici, divisi tra Varese, Napoli e Torino, per un totale di 24.000 addetti che generano il 34% dell'export del settore. Il più attivo è Varese, dove le aziende sono mediamente più grandi e il numero di brevetti maggiore. Allora, buone notizie sul fronte dei distretti. Certo, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, certo che la situazione è tutt'altro che rosea, ma non l'abbiamo mai detto, però per una volta che il gufo, anzi per qualche giorno che il gufo è in soffitta, è in vacanza, lo lasciamo in settimana bianca, abbiate pazienza. Ragioniamo anche di chi reagisce. I dati che a me piacciono più di tutti sono i dati sull'export verso l'Asia. Allora, li commentiamo con il capo economista del gruppo Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Buonasera. Buonasera a tutti. E buon anno, perché tutto il mese di gennaio continuerò a dire buon anno. Allora, poi arriviamo ai 18 poli, diciamo, dell'high-tech, che uno manco se l'immaginava in Italia di trovare l'high-tech. Però possiamo dire che vari inviti, molto ancora c'è da fare, la strada è lunga, ma diciamo le medie imprese italiane, medio-grandi, anche qualche piccolo strutturato, si sono già spostati verso l'Asia, cioè non è che aspettino le scelte della politica. A giudicare perlomeno dai dati dell'export, intendo dire India e Cina, e Vietnam, non solo Cina, uniamoci anche il Medio Oriente. Ma io penso di sì, credo che noi dobbiamo tutti quanti come cittadini dobbiamo molto all'imprenditorialità del nostro paese, perché viviamo in un paese che perde posizioni nelle classifiche internazionali in termini di infrastrutture, di processi decisionali lenti, di tempi lunghissimi della giustizia, cose che sappiamo. Ebbene, nonostante questo, le singole imprese dove c'è un riposizionamento competitivo che punta alla qualità, che punta alla ricerca e all'innovazione, riesce a raggiungere paesi lontani e ad avere tassi di crescita elevatissimi, intorno al 40%, così come avete ben descritto nella scheda che è andata in onda poco fa. Questo è davvero un punto di forza della nostra imprenditorialità. Se proviamo a immaginare cosa potremmo fare se avessimo anche delle condizioni di contorno più positive di quelle attuali, forse saremmo in grado di battere la famosa Germania in questo duello infinito. Ah beh, con un prelievo fiscale un po' più basso, un'evasione fiscale un po' più bassa, qualche autostrada in più e anche qualche indirizzo di politica industriale in più, probabilmente la Germania non sarebbe inarrivabile. Ma coi se e coi ma, De Felice, non si fa nulla, né soprattutto un programma radiofonico. Andiamo avanti sulle vostre analisi, perché voi avete anche indicato che questo recupero dei distretti industriali, quindi della parte più avanzata nella manifattura del paese e nei servizi, è avvenuto non solo con il taglio dei costi. Certo che, insomma, lo sappiamo, il dato sull'occupazione è ancora drammatico, ma c'è stata anche una capacità di reazione, se ho ben capito. Cioè non solo difensiva, non solo il catenaccio, per usare un linguaggio sì, calcistico. Esattamente. Abbiamo giocato in alcuni casi a 3 punte o anche a 4 punte, puntando molto sulla capacità di innovare, sulla capacità di stare su prodotti ad elevato valore aggiunto. Questo non soltanto nei poli tecnologici dove, che erano stati prima menzionati, ma anche in settori molto tradizionali come può essere quello dell'alimentare, come può essere quello della moda o del mobile. E questo dimostra che anche in settori non ad altissima tecnologia l'innovazione paga. E quando c'è la qualità, e per fortuna nei prodotti italiani ce n'è molta, abbiamo dei risultati eccezionali, dei risultati molto positivi. Tutto questo in un contesto complessivo di crescita che però rimane bassa, quindi non dobbiamo poi cadere nell'iperottimismo di questi risultati. No, guardi, è un rischio che questo programma e chi lo conduce non corre, cioè, l'iperottimismo no, casomai... No, visto che il gufo era in settimana bianca. Se vuole lo facciamo tornare rapidamente con gli sci, però insomma non volevo darle un gufo, De Felice, lei è qui per raccontarci una cosa che funziona, non... Le cose che non funzionano, già ci siamo noi tutti i giorni. Concentriamoci sui distretti high-tech. Perché lo dico? Perché abbiamo raccontato in questi 10 anni di programma, svariate volte, le prospettive, anche i segreti del successo dei distretti industriali. Però voi avete scoperto qualcosa di nuovo, che non solo c'è il classico Made in Italy, ci sono 4 settori, e adesso li analizziamo in maniera più dettagliata, che investono sull'alta tecnologia, sulla parte alta nella catena del valore. Qual è il filo rosso, il comune denominatore di questi queste quattro tipologie di distretti? Sì, in tutti questi 4 settori che ripetiamo sono il farmaceutico, il biomedicale, l'aeronautica e l'information and communication technology, abbiamo una caratteristica comune, che quella di poli tecnologici che partono da un forte investimento nel campo della ricerca, investimento effettuato o da istituzioni pubbliche oppure da parte di grandi aziende private. Attorno a questo spunto, diciamo, a questo avvio legato all'investimento in ricerca e sviluppo, poi si è realizzata una miriade di imprese, in alcuni casi piccole e in altri anche abbastanza grandi, come può essere nel caso dei 4 poli farmaceutici che hanno tutte aziende intorno ai 100 addetti, oppure con numerose multinazionali straniere presenti nel territorio italiano. Riferisco all'area milanese, all'area laziale nella provincia di Latina. Sono imprese che fanno molti brevetti e quindi riescono poi ad avere grandi successi. Allora, no, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, delle volte nemmeno con un linguaggio troppo da educande. Non stiamo parlando del rapporto banca-impresa. Ho capito che Gregorio De Felice lavora in Intesa San Paolo, ma fa il capo del centro studi e stiamo analizzando il rapporto di Intesa San Paolo. Non è che ogni volta che c'è una banca devo chiedere come state stringendo o no sui prestiti Basilea 2, Basilea 3. Lo facciamo ogni volta che parliamo di credito e imprese. Chiuso l'inciso, vado avanti. De Felice, mi può raccontare questi 4 poli? Lei accennava già al farmaceutico, c'è il biomedicale, c'è l'high-tech vero e proprio e c'è l'aeronautico. Sì, nel biomedicale... Sono 18 distretti che voi avete raggruppato su 4, diciamo... Su queste 4 poli. 4 sì. Comparti merceologici. Del farmaceutico abbiamo già detto qualcosa, oltre al polo milanese e laziale c'è quello toscano, in provincia di tra Firenze, Siena e Pisa, e poi quello napoletano. In tutto abbiamo un insieme di 70.000 addetti che negli ultimi 10 anni hanno prodotto più di 1.000 brevetti, quindi questo ci dà una sensazione della vivacità di questi Sì, c'è anche Napoli, poli. Parliamo di giustamente di farmaceutico napoletano, per cui sono 7 distretti, giusto lì? Una cosa del genere? Sì, una caratteristica di questi poli tecnologici è che per una volta non abbiamo il solito divario tra nord e sud, ma alcuni di questi sono nel sud. C'è quello di Catania per quanto riguarda Information and Communication Technology, poi abbiamo l'aerospaziale pugliese e 2 in provincia di Napoli, appunto il farmaceutico e l'aerospaziale. Quindi anche il sud è ben rappresentato in questo tipo di... Nella parte farmaceutica, 70.000 addetti, ben 1.100 brevetti negli 1.100 ultimi brevetti 12 anni praticamente. In una decina d'anni. Sì, in una decina d'anni. Sì. E dopo il metodo e la pubblicità vorrei che ci raccontasse sempre brevemente, ci mancherebbe, il distretto biomedicale, quello dell'Information and Communication Technology, e poi quello aeronautico. Una cosa la sottolineo, così rispondo anche a chi scrive al 349-238-6666. Attenzione, dal rapporto emerge in maniera molto chiara che per far scattare questi distretti high tech c'è dovuto essere o un grande gruppo che ha creato, insomma, oppure un grande gruppo partecipato dallo Stato, cioè l'istituzione pubblica. Ecco perché quando si dice che la politica economica può fare molto, può dirigere i soldi laddove da un investimento poi vengono, per gemmazione se ne generano decine di altri, perché da soli, se no, i piccoli non ce la fanno. Questa è una caratteristica di tutti questi distretti. C'era stato un investimento iniziale o di una grande impresa o di una società partecipata dallo Stato o direttamente della pubblica amministrazione. 349-238-6666 per gli sms, meteo e pubblicità, e poi gli altri tre gruppi di distretti dell'Hightech. ...17:39 minuti, di nuovo in diretta con Focus Economia e con Sebastiano Barrisoni. Allora, dottor De Felice, dicevamo dei distretti farmaceutici, mancavano quelli del biomedicale, dell'high tech e dell'aeronautica. Sì, le caratteristiche. Diciamo. Caratteristiche del biomedicale rispetto al farmaceutico è una dimensione delle imprese che è molto più piccola. Pensi che nel polo biomedicale di Mirandola ci sono più di 240 imprese che danno occupazione a 2.200 addetti. Nonostante questo sono imprese, quindi imprese piccole, ma molto attive nella produzione di apparecchi per l'emodialisi, per la cardiochirurgia, per le anestesie, per le trasfusioni, quindi insomma una elevata specializzazione di piccole piccolissime imprese. Passando all'aeronautica, a quello che voi chiamate Information and Communication Technology in senso stretto. Communication Technology, qui dei 18 distretti ne abbiamo 8 in questo settore. Mm-hmm. Andiamo da Milano a Roma, ma c'è anche un polo nel Veneto, uno Genova, nella provincia di Torino, a Genova, a Catania naturalmente, Catania. Ancora in Emilia tra Bologna e Modena, anche all'Aquila se e non ricordo, infine uno proprio all'Aquila. Ultimo è quello aeronautico. Ora mi rendo conto che il settore aeronautico necessita di dimensioni non grandi, enormi, però ecco, nell'aeronautica ecco, già il numero degli addetti sale molto, parliamo di 24.000 occupati che si dividono tra la provincia di Roma, la Puglia, Varese, Napoli e Torino, qui con una capacità di esportare piuttosto marcata, parliamo di circa 4 miliardi di euro di esportazioni nel corso del 2009, più o meno poco più nel 2010, quindi ancora una produzione che è rivolta prevalentemente verso l'estero. Grazie e di nuovo buon anno a Gregorio De Felice, capo del Centro Studi di Intesa San Paolo, perché ogni tanto raccontare anche appunto chi si muove lentamente, non fanno rumore, non c'è solo la Fiat, lo dico anche a chi scrive, certo che la Fiat è importante, la Fiat, Sanremo è Sanremo e vabbè, però non c'è solo la Fiat a sto mondo, lo dico anche al sindacato, ci sono i piccoli e medi che si muovono, le piccole imprese che cercano di mettersi in rete, magari ci fosse un'unione tra datori di lavoro e sindacati per spingere sul governo per qualche agevolazione fiscale su chi si mette in rete. Per quello che riguarda le vostre domande, stavamo parlando nell'ultima parte di questa intervista solo dei distretti ad alta tecnologia, degli altri distretti abbiamo già detto sono andati bene. Adesso però la borsa, anzi un attimo ancora, perché volete sapere chi è il cinese che ha investito 500 milioni di euro in Italia e adesso ne sta per investire altri 160 per fare un polo di ricerca. Dunque, lui si chiama Xun Chin, scusate ma dovrò esercitarmi anch'io per i prossimi anni, è presidente della Zomlion, che è il colosso mondiale nel settore macchinari per l'edilizia. Si è comprato per 500 milioni di euro l'italiana Cifa di Senago, che è regina delle betoniere made in Italy, e adesso vuole investire 160 milioni di euro appunto a Senago per fare un centro di ricerche. Vedete che poi i cinesi non è che fanno solo t-shirt, la borsa. Meno 1% Milano, invariata sostanzialmente Francoforte, Londra meno 0,4 nel finale, Parigi meno 0,34, Milano la peggiore perché pesa molto ST Microelectronics oggi, che i conti tra l'altro li ha presentati a Parigi, ma non erano dei conti così pesanti, avremmo capito male. Allora, come sempre, il collegamento male, anche Monte dei Paschi, avete ragione, meno 3,92%. La Popolare di Milano meno 3%, Unicredito meno 2,5%, molti realizzi sulle banche che avevano guadagnato nelle ultime sedute, Banco Popolare meno 2,26%, Intesa San Paolo meno 2,2%, Tods meno 2,1%, Di Asori meno 2%. E allora, ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ST Microelectronics, i conti, insomma, è tornata inutile, ha fatto 830 milioni di dollari nel 2010, ricavi a record, 10 miliardi di ricavi. Che cosa doveva fare per guadagnare in borsa? Ma aveva già guadagnato abbastanza a gennaio, insomma. Gli operatori sottolineano che, insomma, da inizio gennaio aveva già guadagnato il 10%, quindi la borsa si aspettava questo 2010 oltre le attese, che poi è stato confermato oggi, e quindi qualcuno ha ben pensato di accontentarsi, tra virgolette, e realizzare i guadagni, insomma, accumulati fino ad oggi. Comunque, come giustamente sottolineavi, un quarto trimestre record, utile fatturato oltre le previsioni, insomma, il consensus degli analisti, quindi tutto lasciava prevedere un esito diverso in borsa. Abbiamo scherzato, così come mi fa impazzire che Londra, che oggi ha diffuso a sorpresa un dato sul PIL nell'ultimo trimestre britannico, chiaramente in calo, meno 0,5%, la borsa bellamente ignora, meno 0,4%. Vabbè, e le banche oggi realizzi? Sì, realizzi, ma anche gli effetti della circolare di Banca Italia che è stata diffusa oggi, diciamo un concetto un po' tecnico, cerchiamo di semplificarlo. In pratica le azioni di risparmio detenute dalle banche non conteranno più nel calcolo della loro patrimonializzazione. La direttiva dell'Unione Europea CRD2 sembra una formula segreta. Beh, ciò significa, insomma, in parole povere, che le banche non saranno più patrimonializzate come prima ai sensi di questa normativa di Basilea 3, e chissà, per alcune di loro magari sarà necessario un aumento di capitale. Quando si sentono aumenti di capitale in borsa piovono le vendite. Ecco, nel caso del Monte dei Paschi la borsa continua a far circolare questa voce, Mussari ha smentito, però insomma più di un operatore dice no, il Monte dei Paschi cerca liquidità, deve arrivare a un aumento di capitale. Ma insomma, in questo senso valgono le dichiarazioni ufficiali, però mi piace anche sottolineare che Fondiaria SA è andata avanti un anno a smentire un aumento di capitale, e domani c'è un'assemblea che dovrà deliberare un aumento di capitale di 460 milioni di euro. Sì, possiamo anche ricordare che Banco Popolare, se non fosse stato per voi di Radio Corriere sulle 24 ore, lo avremmo saputo dopo l'indiscrezione di 2 miliardi di aumento di capitale, per cui io, insomma, così. Vedremo, magari sono voci maliziose, vedremo, abbiate pazienza, lo dico a chi scrive. Non possiamo obiettivamente dire che il Monte dei Paschi sta per fare l'aumento di capitale, continuano a girare voci in questo senso, ma noi dobbiamo attenerci alle dichiarazioni ufficiali, che sono appunto non nessun aumento di capitale per la banca di Rocca Serembeni. Fiat più 2,26, Fiat Industrial più 1,92, Xor più 1,92%. Dimmi che c'è notizia. Ma non c'è notizia. Eccoci. Non c'è notizia. Gli operatori in questo caso sottolineo un'attesa per eventuali operazioni straordinarie. C'è qualche report positivo dopo il tonfo di ieri, è arrivato in soccorso le quotazioni della Galassia Agnelli, insomma, qualche ricopertura. Ancora, tra i migliori e i peggiori in assoluto, cito rapidamente Tiscali più 18%, Mondo Home Entertainment più 18%, Prima Industria più 10,1%, fronte opposto invece Unione Alberghi Italiani meno 7,5%, Pininfarina meno 6,70%. Qualche novità su Tiscali? Sì, sottiscali. Diciamo che il mercato con un giorno di ritardo ha scontato l'ingresso nel capitale di questa Ignis Investment Services, che è un gruppo finanziario britannico con sede a Glasgow. Questo fondo ha rilevato il 5% di Tiscali, si è appreso ieri dalle comunicazioni Consob, nulla di che, però comunque ciò testimonia un rinnovato interesse degli investitori nel titolo. Ecco, tu in vicenda invece che riguarda il gruppo San Paolo, hai raggiunto il presidente della Fondazione Cariplo, che ti ha chiarito in maniera molto netta di vedere con favore l'ipotesi di un'integrazione tra Pioneer, quindi gruppo Unicredito, e Horizon Intesa San Paolo. Ascoltiamo Guzzetti. Noi continuiamo a predicare l'italianità, poi sono tutti temi controversi, diciamo, ah, se l'italianità è a danno della professionalità, benissimo, d'accordissimo, ma io dico sì, io non conosco questi progetti perché competono ad altre sedi, ma se si riesce a trovare, devo anche dire che il clima non solo su questo tema, in altri temi di collaborazione all'interno del sistema bancario italiano e soprattutto fra le due grandi banche mi pare molto buono negli ultimi mesi, e questo è un dato positivo. Se trovano loro due con altri, insomma, che il risparmio venga gestito da istituzioni italiane, io applaudo e dico sono favorevole. E quindi tifo perché riescano a fare questa operazione che consente al risparmio italiano. Poi mi chiedo, ho fatto questa operazione di acquisire Pioneer sull'estero perché adesso lo dobbiamo andare a ridarlo agli stranieri. Quindi io sono favorevole a che il risparmio italiano sia gestito da istituzioni italiane. Così Giuseppe Guzzetti al tuo microfono. Ciao Condina, grazie a te e ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Arriveremo tutti interessati al cinese che investe 160 milioni in provincia di Milano. Ci arriveremo, l'abbiamo intervistato. Prima di tutto vorrei però restare sui temi di carattere internazionale e occuparci di quello che capiterà questa sera, ossia alle 3 di notte ora italiana. Vi sarà l'atteso discorso del presidente Barack Obama per quello che riguarda il discorso annuale sullo Stato dell'Unione. E se mi abbassate la base mi fate una cortesia, non so più come dirlo, di là dal vetro, grazie. Allora, dicevo, l'atteso discorso di Barack Obama sullo Stato dell'Unione, perché atteso? Perché in sostanza è il secondo anno, si chiude il secondo anno del mandato di Barack Obama, molte le incognite, sarà da quello che abbiamo capito un discorso soprattutto sulla parte che riguarda l'economia americana. ...17:51, allora dicevamo discorso sullo Stato dell'Unione, parliamo a questo punto di America. Eh sì, perché saranno le 3 di notte in Italia, le 21 negli Stati Uniti, quando Barack Obama pronuncerà, come ogni anno al Congresso, il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione, concentrato da quello che si capisce sulle misure per accelerare la crescita, e ti pareva, e migliorare il mercato del lavoro. In realtà è anche l'occasione per fare un bilancio di questi primi due anni della presidenza di Barack Obama. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento la direttrice della rivista Aspenia, Marta Dassù. Buonasera. Buonasera. Voi, Aspenia è la rivista, diciamo, che emana dagli incontri dell'Aspen Institute Italia, e proprio oggi avete presentato a Milano, all'ISPI, all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, il numero 51 di Aspenia, dedicato interamente agli Stati Uniti. Allora, veniamo al discorso sullo Stato dell'Unione, le linee guida che già sono conosciute, dicevo un discorso concentrato ancora una volta sull'economia, inteso come crescita, e sul mercato del lavoro, inteso come disoccupazione? Beh, certamente sì. Obama per i primi 2 anni della sua presidenza ha avuto a che fare con la crisi economica, è stato un presidente, così è stato scritto, di sicurezza economica. Nei prossimi 2 deve dimostrare che riuscirà a fare crescere l'America, quindi non soltanto a parare la crisi, ma anche a farla crescere per affrontare il problema principale che ha, e cioè un tasso di disoccupazione che è ancora sopra il 9%. Crescita economica e soprattutto mercato del lavoro. Lei ricordava come Obama sia stato un presidente di sicurezza economica, che però, e qui veniamo più a un bilancio sui 2 anni, ad alcuni è parso perdere quello slancio riformista, innovatore, non fosse altro che il primo presidente di colore nella storia americana, ma non solo. Molti hanno detto che è un Obama che via via che passa il tempo diventa sempre più repubblicano, e citano a questo proposito una riforma della sanità che poi con 1000 compromessi ancora non si sa se passerà, un atteggiamento molto tiepido sulla presenza americana in Iraq e soprattutto in Afghanistan, e anche un atteggiamento con la Cina molto pragmatico, se vogliamo, ma molto poco idealista. Si è perso lo spirito, diciamo, del New Deal, Obamiamo? Beh, Obama come liberal nei primi 2 anni ha perso consenso. Insomma, non c'è dubbio, secondo me, che una presidenza americana spostata eccessivamente a sinistra, fra virgolette, non è una presidenza popolare. Quello che Obama sta facendo, e ha cercato di farlo in questo periodo di intermezzo tra la batosta elettorale che ha preso al midterm e l'avvio di questo nuovo congresso, è di spostarsi al centro. Obama sta reagendo alla sconfitta nel midterm come aveva fatto Clinton più o meno nel 94, cioè cercando di recuperare l'elettorato centrista e grande parte degli indipendenti. E come lo fa? Lo ha fatto innanzitutto accettando un compromesso sulla continuazione dei tagli fiscali di Bush, che naturalmente non piace ai suoi liberal, come lei diceva, ma che comunque lo mette in posizione migliore rispetto all'America che esiste. Il suo tasso di gradimento è passato in questo ultimo mese dal 46% al 50-53%, quindi Obama è in rimonta. Allora, questo messaggio, dottoressa Dassù, è per dire che siamo noi, Obama sarà in rimonta, ma noi siamo fuori tempo massimo. Ci risentiamo dopo il GR, perché ho ancora un paio di domande per lei che riguardano la riforma di Wall Street in primo luogo e il rapporto con la Cina, che non può, a mio avviso, essere solo di carattere economico. Comunque, dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo l'analisi con la direttrice della rivista Spenia, che è la rivista che sta alla base poi dell'Aspen Institute, Marta Dassù, su questi 2 anni di Obama, visto che questa sera, ripeto, alle 3 di notte ora italiana, alle 21 in America, vi sarà l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione, così si chiama in gergo. Dicevo, dottoressa Dassù, sul fronte della riforma di Wall Street, lì qualche critica, per essere buoni, a Obama è arrivata. Nel senso che si è detto è stato troppo tiepido e morbido con chi questa crisi, non dimentichiamolo mai, l'ha generata, esponendosi in maniera eccessiva a dei rischi, creando strumenti fuori da ogni logica quanto a leva e quanto a capacità di controllo, distribuendosi bonus milionari. Insomma, tra l'altro ha un ministro dell'economia come il segretario del tesoro Timothy Geithner, che da Wall Street viene e a Wall Street tornerà. Ecco, un Obama troppo timido con la finanza? Ma in realtà lui ha fatto una riforma delle regole finanziarie che è stata approvata. Oggi ha il problema di parlare di nuovo al business. Lui ha bisogno delle imprese americane per riuscire a stimolare l'economia, perché una lezione di queste elezioni che ha perso è che il governo grande, il big government, non piace all'elettorato, quindi deve puntare sulle imprese, sulla loro capacità di rinnovamento, e per farlo fra l'altro ha nominato Immelt, che è il capo della General Electric, capo di un nuovo consiglio sulla competitività e il lavoro. Ecco, queste due parole sono le parole vere per capire questa seconda parte del mandato di Obama. Credo che bisogna tenere presenti queste due parole. C'è un grande vincolo esterno che è la Cina, abbiamo appena visto il viaggio di Hu Jintao a Washington. Obama vuole che l'America non arresti il suo declino in sostanza e deve quindi proporre una ricetta che funzioni per fare sì che l'America sia il paese veramente alla guida del sistema economico internazionale. Ecco, dottoressa Dassù, vorrei chiudere su questo perché insomma mi sembra che il pragmatismo, diciamo americano se vogliamo, però mal si coniughi con i valori che Barack Obama tanto aveva enunciato in campagna elettorale. Mi riferisco alla Cina, cioè anche nell'ultima visita di Hu Jintao, al di là di una così pressione sulla Nord Corea e poco altro di diritti civili, di democrazia, di libertà di espressione, praticamente si è parlato per sbaglio, tutto è stato concentrato sugli accordi commerciali, 40 miliardi di dollari di accordi firmati. Beh sì, certamente, ma lei ha ragione, ma è stato meno timido che altre volte, devo dire, ha posto il problema se non altro, cosa che non è proprio così usuale, e quindi io non condivido fino in fondo questa analisi. Obama ha vinto la campagna elettorale nel 2008 perché ha saputo presentarsi come un unificatore dell'America, poi nei primi due anni è sembrato troppo partisan, troppo di parte, ha scelto la riforma sanitaria come terreno principale, era una cosa molto importante ma non capita dall'insieme dell'elettorato tutto sommato, che preferiva che lui si concentrasse sui problemi del lavoro, e quindi sta cambiando registro e lo fa spostandosi al centro. Se poi riuscirà o no a convincere i repubblicani a collaborare è il grande problema aperto, perché in questo periodo c'è stato un congresso di coda, per così dire, adesso si vedrà da domani con il nuovo congresso e con la maggioranza repubblicana alla Camera quanto questa nuova bipartisanship potrà funzionare. Eh sì, perché il congresso non è di coda, non è neanche a prioristicamente a favore. Grazie alla direttrice di Aspenia, Marta Dassù. Grazie a voi. Dagli Stati Uniti, dal discorso appunto che Barack Obama terrà questa notte ora italiana, passiamo all'Italia. Perché? Perché come ampiamente abbiamo annunciato all'inizio del programma, oggi con la cerimonia al Quirinale si è tenuta la 16ª premiazione del premio alla qualità Italia. In realtà il premio va sotto il nome di premio Leonardo, è un premio agli imprenditori italiani, ma non solo, perché è stato premiato anche un imprenditore cinese che ha investito in Italia. Premio che si è svolto alla presenza di tutti i big dell'economia e della finanza italiana, intervenuto, visto che si era ospite del Quirinale, il Presidente della Repubblica Napolitano. Sentiamo il passaggio in cui Napolitano ricorda come questa ripresa economica in Italia sia meno forte che altrove, ha citato esplicitamente i dati diffusi qualche giorno fa dalla Banca d'Italia. Non possiamo nasconderci il fatto che la ripresa è meno sostenuta che in altri paesi. Si calcola che alla fine del 2012 il PIL avrà recuperato circa la metà della perdita di 7 punti subita nel corso della recessione. Ebbene, noi dobbiamo sapere che è imperativo per l'Italia andare al di là di questi limiti, forzare la crescita oltre queste previsioni che sono troppo inferiori alle nostre esigenze, all'esigenza di un rafforzamento della nostra collocazione nell'economia europea e ancor più mondiale. Tra tante difficoltà e tensioni è essenziale che ciascun soggetto, istituzione, istituzionale, economico, sociale, faccia più che mai la sua parte, faccia più che mai il suo dovere, continui a far bene, continui a operare bene nell'interesse generale del Paese, e d'altra parte il nostro compito oggi è quello di andare avanti. Quello che dice questa iniziativa è che occorre andare avanti nell'innovazione, nella internazionalizzazione, nell'impegno a elevare in tutti i settori produttività e competitività. così il Presidente della Repubblica Napolitano, è intervenuta anche durante la cerimonia di premiazione della Presidente di Confindustria Marcegaglia, che non è tornata sull'analisi o le critiche all'operato del governo negli ultimi sei mesi, e invece ha descritto un 2011 come anno migliore, complesso ma migliore rispetto a quello che si è appena chiuso. Questo è ancora un momento complesso, un momento in cui i mercati finanziari hanno ancora alcune difficoltà, però penso che possiamo dire tutti insieme che il peggio è alle spalle e che il 2011 si presenta come un anno migliore rispetto al 2010. L'economia mondiale è in ripresa, sta riprendendo a correre quasi a livelli pre-crisi e appunto il commercio globale sta dando segnali piuttosto interessanti. Ed è proprio per questo che per le nostre imprese questa è un'opportunità importante ed è un'opportunità che le nostre imprese stanno cogliendo. Nei primi 11 mesi del 2010 le nostre esportazioni sono cresciute del 15% e se noi guardiamo quanto sono cresciute le nostre esportazioni verso i paesi emergenti, noi siamo addirittura quasi al 17%, quindi c'è una parte del mondo che sta accelerando e in generale appunto l'economia globale del 2011 dà segnali interessanti. Così Ena Marcegaglia durante la premiazione del Premio Qualità Italia, Premio Leonardo. Devo dire che, visto che anche i nostri GR ricordavano oggi l'iniziativa del FAI e di Banca Intesa San Paolo, delle necessità del paese ha parlato però oggi anche Corrado Passera, e quindi da Roma ci spostiamo su Milano, poi riascolteremo invece, o ascolteremo per essere più precisi, alcune delle interviste ai premiati. È un Corrado Passera che dice: attenzione, insomma, il paese è distratto da cose che non fanno bene. L'austerità, oltre che la stabilità, e quindi il giusto rigore che dobbiamo a tutti i costi salvaguardare sui conti, non ci deve però far dimenticare che dobbiamo attivare iniziative di crescita. Noi abbiamo un problema serio di crescita insufficiente, di occupazione insufficiente, di disagio nel mondo del lavoro e nel mondo, nella società, molto elevato, e quindi tutti insieme dobbiamo trovare meccanismi più efficaci di creare occasioni di iniziative di crescita senza mai mettere a rischio i nostri conti pubblici. Io credo che se noi guardiamo soprattutto dall'esterno il nostro paese, stiamo parlando di un paese che oggi è distratto da tante cose che non fanno bene al nostro paese. Così Corrado Passera. Dopo il traffico invece, da tanto attesa, vedo molti messaggi, intervista al cinese, ossia al premiato per quello che riguarda il premio Leonardo sulla parte internazionale, Xan Chung-sin, presidente della Zom Lion, 500, mezzo miliardo di euro investiti in Italia, altri 160 milioni che investirà a breve sempre in Italia per creare un centro di ricerca. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, i premi Leonardo ne hanno vinti tanti imprenditori nelle diverse categorie: Costa Crocieri, la Danieli, Officine Meccaniche, il gruppo Bonfiglioli, il Pastificio Rummo. Il premio Leonardo, quello complessivo, lo ha vinto invece quest'anno Laura Biagiotti, presidente del Biagiotti Group. L'abbiamo intervistata non solo per fare complimenti, ma anche perché insomma, Laura Biagiotti è arrivata in Cina nel 1988, quindi quando c'era ancora un comunismo pieno, altro che la Cina di adesso, e ci ha raccontato qual è stato l'approccio con quel mercato. Ha dato anche un'indicazione a chi vuole seguire il suo esempio. I miei esordi non sono stati facili, anche se venivo da una famiglia di impresa, quindi credo che bisogna avere fiducia e amore grandissimo per il proprio lavoro, forse anche mestiere, se posso definirlo così, cosa che forse sfugge un po' alle generazioni nostre contemporanee. E certamente il periodo che attraversa l'economia mondiale non è dei più rosei. Abbiamo un bel dire mercati emergenti, ma insomma bisogna anche conquistarli, investire molti soldi,

naturalmente nelle loro attività professionali tutti quanti i premiati hanno ottenuto risultati di eccellenza. Mi ha lasciato impressione molto profonda sul fatto che i premi alla carriera che sono stati assegnati ai nuovi laureati, perché i giovani rappresentano la speranza del futuro, quindi si tratta di un evento molto significativo. Ho notato anche che il Presidente della Repubblica in prima persona ha assegnato questi premi a nome dello Stato. Lei ha un investimento molto importante in Italia e ha annunciato 160 milioni di euro, se ho ben capito, di investimento in Italia nell'area di Milano, tra l'altro assumendo ingegneri italiani. Come mai ha investito in Italia? Che giudizio ha dell'investimento in Italia? Che problemi ha trovato? E come mai gli ingegneri italiani, visto che i cinesi dovrebbero essere preparati uguale ma anche meno cari? Io volevo dire che noi abbiamo speso 500 milioni di euro per acquisire questa compagnia italiana. Quindi 500 milioni sono stati spesi per acquisire questa società italiana. L'idea di investire altri 160 milioni di euro solo per la realizzazione di un centro di ricerca e di sviluppo. Noi non siamo interessati soltanto al personale di questa società italiana, siamo interessati soprattutto alle marche, al canale di distribuzione e alla tecnologia di questa società italiana. Restiamo sul tema degli ingegneri che mi incuriosisce molto. È vero che insomma, voi avete trovato anche una buona preparazione negli ingegneri italiani? E, o meglio, come fate a sopperire alla manodopera che in Italia obiettivamente è più cara rispetto alla Cina? Dov'è la convenienza? Gli ingegneri rappresentano soltanto una parte della società. Siamo interessati, come ho detto prima, no? Al brand, alla distribuzione, alla tecnologia, ai prodotti di questa società. Allora siamo interessati naturalmente anche al personale di questa società. Puntiamo su questa società italiana, puntiamo di conseguenza anche ai suoi ingegneri. Speriamo che un numero crescente di imprese italiane diventino di questo livello come quella che abbiamo acquisito. E le principali difficoltà che ha trovato nell'investire in Italia? La prima, cioè la più grande difficoltà che abbiamo incontrato è che subito dopo l'acquisizione è scoppiata questa crisi finanziaria internazionale. Ma problemi invece relativi all'Italia, alla burocrazia, al sistema italiano? Per quanto riguarda questi problemi, dato che io non sono mai in prima persona operativo, allora forse ne hanno qualcosa da dirle il personale che sono più operativo, che è più operativo di me. Almeno diciamo il vantaggio più forte nell'operare in Italia riguarda quello dei i marchi, come ricordava lei, c'è cioè la catena distributiva o anche il know-how? Siamo interessati agli aspetti fondamentali di questa azienda, al suo management, ai suoi prodotti, tecnologia e i mercati. Cioè per i mercati intendo dire i canali di distribuzione, naturalmente anche brand. Beh, speriamo ce ne siano anche altri di Xan Chung-sin. Per ora veramente tutto è per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata, un ringraziamento in questo caso, visto che trasmettevamo da Roma, anche a Gloria Guerrera. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.